numeri, innanzitutto, sono 50.500 i positivi al virus, 400 i guariti, 600 i morti. Sia il numero di vittime che quello dei contagiati cresce, ma per il secondo giorno consecutivo meno che nelle settimane precedenti, e cala il numero dei ricoverati in Lombardia. Tutti avvisano che non è il momento di abbassare la guardia, e effettivamente non lo è. Tanto che il governo si prepara a varare una nuova stretta che prevederebbe multe fino a 2.000 euro, alcuni giornali scrivono 3.000, e sequestro del mezzo di trasporto se si viene trovati in giro ingiustificatamente. Agenda fitta quella di oggi. Oltre a questo è prevista una riunione ovviamente a distanza dei ministri europei sulle nuove regole di bilancio, con tensioni già evidenti con l'Olanda, e una dell'esecutivo con i sindacati, che minacciano sciopero per le troppe fabbriche aperte e per le mancate misure di sicurezza. Nel frattempo il paese che pare confrontarsi più duramente con l'epidemia, insieme al nostro, è la Spagna, dove il virus ha piegato la capitale Madrid. 1260 morti, non si sa nemmeno dove mettere i cadaveri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Come ogni mattina, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Iniziamo con Bob Marley. Lo diciamo sempre, non è un modo di professare ottimismo insensato, eh? È solo un modo per farci coraggio, ascoltare Bob Marley che con la sua voce ci dice che a un certo punto tutte le cose si metteranno a posto, tutte le cose andranno bene. Solo questo. Alle 6, 31 minuti e 27 secondi inizia 24 Mattino in questo martedì 24 marzo. Eccoci, vi aspetto, 349-238-6666 per gli sms e soprattutto i messaggi su WhatsApp, anche audio, soprattutto le vostre voci, come sempre. Sentirle. Come la vedete, come state vivendo questa fase? Insomma, ormai siamo a più di qualche giorno di blocco, e al di là degli argomenti di dibattito, la chiusura, quali fabbriche devono chiudere, quali non devono chiudere, quali attività devono rimanere aperte, le proteste dei sindacati, le preoccupazioni, il tema della stretta ulteriore serve davvero, visto che insomma la stretta già c'era e forse qualche risultato lo sta dando. Oltre a tutto questo, voi come la state vivendo? Come sta andando questo periodo? Come la vivete a casa? Se dovete andare al lavoro, dove state andando? Così ci siamo tutti un po' più vicini, virtualmente, per carità, virtualmente. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione insieme a Giorgio De Luca. Iniziamo con qualche voce, direi, due voci, anzi due o tre, facciamo, che così andiamo tra il quadro generale e la Lombardia. L'Istituto Superiore di Sanità, con il presidente dell'istituto, Silvio Brusaferro, che dice, insomma, è una settimana molto importante questa. Questa è una settimana molto importante per noi, per valutare un po' l'andamento delle nostre curve, e questo credo lo stiamo guardando con grande attenzione. Questa grande attenzione però deve anche farci ricordare che in questo momento il grande contributo alle curve avviene soprattutto nelle regioni dove c'è una forte circolazione, quindi le regioni del nord, e che il nostro sforzo in questo momento è quello di evitare che nelle regioni del sud le curve abbiano questa riproducano una caratteristica che si è verificata nelle regioni del nord. E sempre Brusaferro parla appunto un po' più nel dettaglio di questo eventuale trend negativo che iniziamo a vedere. non mi sento ancora di sbilanciarmi sul confermare o meno che c'era. Certamente possiamo prendere atto di un fatto che queste misure, che diciamo noi quello che censiamo oggi, censiamo qualcosa che è avvenuto 2 settimane fa, quindi lo dobbiamo riportare ai provvedimenti presi ai primi di marzo, nella prima metà di marzo. E questo apre un po' il tema e apre un po' la discussione, insomma, no? Se serva un'altra stretta oppure no. Dice l'assessore Lombardo Gallera, forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Non è ancora il momento né di cantare vittoria né di rilassarci, anzi forse è il momento in cui dobbiamo essere ancora più concentrati di mai, ma forse lo stiamo facendo perché effettivamente una luce in fondo al tunnel la vediamo. Quindi dati positivi, aggiunge, ma attendiamo. Questa è quindi la giornata che forse vede maturare i grandi sforzi che abbiamo iniziato a fare dalla domenica 9 o dal lunedì 10, possiamo dire. Ne stiamo vedendo i frutti, forse. Così dunque Gallera, ed è proprio in Lombardia, dalla Lombardia che partiamo, dal luogo che più sta subendo questa emergenza, dal luogo che porta già adesso, e l'emergenza non è ancora finita, le ferite più profonde. Partiamo dunque da Bergamo. E lo facciamo con Stefano Magnone, che è chirurgo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, segretario della NAO Lombardia, che è l'associazione, che è il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici. Magnone, buongiorno, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Che sono ore molto faticose per voi, immagino. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, sicuramente le sono per tanti motivi, perché qui è stata colpita una regione che aveva una sanità sicuramente in efficienza ed è stata travolta da un numero di persone che hanno avuto bisogno di ricorrere all'ospedale che nessuno, credo, con tutta onestà, avrebbe potuto immaginare. E tutto questo è accompagnato anche da tutta una serie di persone che nessuno penso possa quantificare, che sono a casa e che magari in condizioni normali sarebbero state in ospedale. Certamente. Ieri c'è una lettera scritta in inglese da un po' di suoi colleghi, Magnone, proprio colleghi dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, no? Che raccontano la situazione che state vivendo là, tra gente addirittura messa sui materassi per terra e l'impossibilità di mantenere quegli standard di cura ai quali eravate abituati, ma non riuscire a mantenerli di poco, non riuscire a mantenerli di tanto. Sì, l'ho letta. Devo dire che questa lettera è un grido di dolore di molti colleghi, tra l'altro appunto del mio ospedale, che ben descrive lo stato di grande prostrazione, di grande smarrimento di tutta la classe medica in Lombardia. Penso che questo stato d'animo si possa tranquillamente estendere a gran parte degli ospedali lombardi, soprattutto della zona est, quindi delle province di Brescia, di Cremona, di Bergamo, di Lodi, che sono quelle più direttamente impattate. Devo dire però anche che quello che ha stupito tutti e che comunque ha costato grandissimi sacrifici è l'estrema dedizione, l'estremo impegno di tutti nel curare queste persone a cui, ricordiamo, di fatto manca il fiato, quindi sono persone in grandissima difficoltà di tutte le età, se vogliamo, perché comunque questo virus colpisce tutti, e questo forse è stato un motivo anche di sottovalutazione all'inizio, perché si pensava che i giovani potessero non essere affetti da questo virus, invece non è così. si sono affetti, ci possono essere, come dire, i tassi di mortalità, i tassi di letalità per questo virus tra le persone più giovani sono più bassi, ma questo non vuol dire che non ci siano conseguenze importanti, delle polmoniti anche forti, insomma, no? Assolutamente. La necessità di ricorrere alla respirazione assistita. Al Giovanni XXIII 300 letti su 900 sono occupati da malati di Covid-19, questo per darvi la misura della cosa. Io non so quanti ascoltatori ci sentano da altre parti d'Italia, ma per un lombardo vedere un racconto di questo genere a fronte di una sanità che pensava essere sostanzialmente la migliore d'Italia e invidiata a livello europeo fa decisamente impressione. Ci sono anche tanti sanitari che sono stati infettati, Magnone. E qua veniamo a una parte dolente, lo diciamo sempre, non è il momento delle polemiche, non è il momento, però insomma forse iniziare a ragionare su qualche responsabilità, su come è stata gestita anche all'interno degli ospedali, anche a livello generale, sanitario, questa vicenda, insomma forse su questo ci si può ragionare a livello di forniture, ovviamente, non ne parliamo nemmeno di quello, le mascherine e i dispositivi di protezione. Sì, questo è un argomento ancora molto delicato e dolente, perché noi abbiamo visto situazioni di difficoltà, di carenza, e nessuno penso possa mettere in dubbio l'impegno di tutti, a tutti i livelli, perché le forniture fossero adeguate. È chiaro che, diciamo, a livello macro qualcosa è mancato, una certa previdenza. E forse, Magnone, mi permette, forse anche a livello micro, a livello di singoli ospedali, quelli più piccoli, dico, quelli più chiaramente meno attrezzati per affrontare qualcosa di questo genere? Anche questo è un argomento molto delicato, perché io mi sento anche molto, come dire, in difficoltà e anche personalmente coinvolto, perché vivo in questa zona e quindi non è assolutamente, come dire, non sono nella posizione di gettare la croce addosso a nessuno. Sì. È chiaro che qualcosa è successo e io, come dire, anche da un punto di vista personale posso attribuire anche a me stesso evidentemente delle leggerezze, soprattutto all'inizio, per cui probabilmente qualcuno di noi, e ripeto, mi ci metto anch'io dentro, perché anch'io sono un medico e anch'io ho avuto, come dire, il mio periodo di quarantena, probabilmente qualcosa anche noi abbiamo sottovalutato. Detto questo, tutti penso a qualsiasi livello potrebbero dirsi una cosa simile. Sì. Io devo anche dire che faccio il chirurgo e adesso in questo periodo sono rientrato al lavoro, quindi anch'io farò la mia parte con questi pazienti, ma fino a un mese fa o poco più, poco o nulla sapevo di queste cose, ecco, quindi io personalmente mi prendo la mia parte di responsabilità. E la ringraziamo per questa missione non frequente, a dire il vero. Grazie a Stefano Magnone, chirurgo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, segretario della NAO Lombardia, che è il sindacato più rappresentativo dei medici. E andiamo, ci spostiamo a sud con Sala Consilina, siamo in provincia di Salerno, comune zona rossa, con Francesco Cavallone, che ne è il sindaco. Buongiorno Cavallone, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Si stanno moltiplicando queste per piccole o meno piccole zone rosse in varie parti d'Italia. Abbiamo raccontato di Medicina in provincia di Bologna, abbiamo raccontato di Fondi, siamo in provincia di Latina, forse si sarebbe dovuto fare, e lo abbiamo detto spesso, anche Alzano Lombardo e Nembro in provincia di Bergamo, esattamente per evitare quello che è successo, ma ci sarà tempo per ricostruire le responsabilità. Siete quanti i comuni che sono stati messi in zona rossa, Cavallone? 4, se non vado errato? Sì, siamo 4 comuni che siamo lungo la dorsale della 2 del Mediterraneo, per una popolazione complessiva di circa 23.000 abitanti. La nostra richiesta è stata fatta, almeno per quanto mi riguarda, sono stato il primo. Sala Consilina è la cittadina più grande delle 4, che ha circa 13.000 abitanti, nel momento in cui c'è stata la percezione che il contagio potesse aumentare, sono stato stesso io a chiedere al Presidente De Luca, al Presidente della Regione, un aumento delle restrizioni e quindi l'isolamento in entrata e in uscita ed anche eventualmente la sospensione degli uffici pubblici, proprio per evitare la circolazione delle persone, perché credo che la problematica maggiore in Italia, ma nel nostro territorio, per non dire nel mondo, sono proprio gli asintomatici, tutti coloro che non avendo sintomi potrebbero potenzialmente infettare e contagiare senza nessuna responsabilità, non avendo la consapevolezza di essere dei portatori sani, tra virgolette, di questa malattia nei confronti di chi gira. Soprattutto la mia preoccupazione è maggiore in questo periodo dell'unica attività che sono quella dei supermercati, dove il contagio più facilmente potrebbe espandersi. Ascolti, Cavallone, avete avuto rientri dal nord di vostri concittadini che appunto vivevano al nord e in questi giorni sono tornati giù? Allora, noi la massima ondata del rientro l'abbiamo avuta in quel famoso fine settimana. Quello del decreto. Del decreto. Sì, anche noi naturalmente in quel periodo c'è stato, come credo in tutta l'Italia meridionale, una sorta di fuggi generale per la paura di rimanere bloccati. Rendiamoci conto, tantissimi studenti fuori sede, la preoccupazione dei genitori che non volevano che i figli rimanessero soli nelle proprie sedi universitarie, con la preoccupazione che se fosse capitato qualcosa non c'era nessuno neanche che potesse soccorrerli o intervenire, e questo ha causato naturalmente questa corsa sfrenata al ritorno. Ma non credo sia stato solo questo il problema. Sentendo prima il dottore di Bergamo, credo è stata anche la sottovalutazione soprattutto dei giovani in quella circostanza, che il problema potesse riguardare solo ed esclusivamente gli anziani. Percezione. Sì, senta Cavallone, sì, questo c'è chiaro. Un'ultima domanda. Se non sbaglio, lei ha chiesto a quelli trovati positivi o comunque a chi presenta sintomi di autodenunciarsi pubblicamente? Sì, è stata una scelta della nostra amministrazione di fare un'autodenuncia di chi è risultato positivo, in modo tale da poter ricostruire un'eventuale catena nei confronti di quelle persone che ci avevano avuto contatti e quindi eventualmente autoisolarsi in questa sorta di quarantena volontaria. O un appello che è stato fatto ai miei cittadini, proprio un appello di responsabilità, di senso civico, di altruismo, di bontà, chiamiamolo come vogliamo noi, di sopravvivenza del nostro territorio, perché credo attraverso quest'atto, perché sappiamo benissimo che la privacy ci impedisce di poter divulgare i nomi, e devo dire che su 24 contagiati già 3 o 4 si sono autodichiarati pubblicamente, e questo sicuramente è un motivo di grande soddisfazione, perché credo che si sia percepito all'interno della mia popolazione che effettivamente c'è una situazione di pericolo che deve essere debellata. La ringrazio, grazie a Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina. Vedremo come evolveranno le cose, siamo in provincia di Salerno, il traffico. Da questa mia esperienza le persone devono capire che è fondamentale stare in casa, la prevenzione è indispensabile per non diffondere l'infezione. Questo può significare anche allontanarsi dai propri cari e dagli amici, perché non sappiamo chi può essere contagioso. Io sono stato molto fortunato perché ho potuto essere curato. Ora potrebbero non esserci medici, personale, mezzi per salvarti la vita. Da questa malattia si può guarire. E questo è il famoso paziente 1, è quello che avrebbe fatto partire il contagio nell'Odigiano, a Codogno e dintorni, che insomma finalmente ne sta uscendo, e ne sta uscendo con la voce che avete sentito, una voce evidentemente ancora sofferente. Dunque, c'è un fronte che secondo me meriterebbe un filo di attenzione in più, sul tema scienza e come si muove la scienza in questi tempi. Il tema è quello di un farmaco. È girato un video, lo avrete visto su Facebook, sui social, ce l'avete mandato anche qua, il video di un infermiere, un presunto tale, non lo sappiamo esattamente, il quale dice: qua in Giappone stanno sperimentando un farmaco che è l'Avigan, che funziona benissimo, è il motivo per il quale hanno così pochi morti. E improvvisamente l'Avigan diventa un qualcosa da sperimentare ufficialmente. Parte il Veneto con Luca Zaia. Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci. Stiamo sperimentando l'Università di Padova almeno 6 da soli o in associazione. Evito di citarveli perché sembrano dei scioglilingua, a iniziare dal Turlicide, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite. Li stiamo sperimentando. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. E l'autorizzazione arriva, la dà il direttore generale dell'AIFA, Magrini. Io ritengo che in 3-4 settimane si possa avere 3-4 settimane si possano avere le prime risposte sui farmaci in studio. Dipenderà dal disegno per il cosiddetto Avigan, che si chiama Favipiravir, che è un vecchio farmaco antinfluenzale, dal disegno che avrà per capire quante se funziona. Però ci stiamo muovendo con questa rapidità, che è una rapidità straordinaria. Sapere in poche settimane quanto e se funziona. Oh, vi leggo solamente il tweet di Roberto Burioni. Sapete chi è, no? Oggi in Italia la prima sperimentazione clinica decisa sulla base di un video di YouTube postato da uno sconosciuto. La vita ha più fantasia di me. Ho tante questioni, la questione di delle attività che restano aperte, che restano chiuse. Qualche ascoltatore già mi scrive e dice: guardate che sono ferma, è ferma anche la distribuzione della componentistica e dei PC, dell'elettronica, dei cellulari. Ragazzi, qua il problema è che si è fatto un decreto con i codici Ateco, che sono dei codici che corrispondono alle attività economiche, ma solo che sono codici vecchi di 20 anni e quindi non tengono conto, per esempio, di come sono interconnesse tutte le aziende. In questi giorni si va un po' a correggere il tiro, no? Per esempio ci sono aziende che faranno richiesta alla prefettura perché, pur essendo nel settore della metallurgia, magari fanno l'alluminio per le capsule, per incapsulare i medicinali, e quindi quelle devono rimanere aperte anche se il decreto dice che devono rimanere chiuse. Come capite, è un problema questo, cioè non è facile, è un mondo complesso, è un'economia complessa, e quindi i problemi su questo fronte ci sono. E a proposito di economia complessa, c'è quella dei supermercati in queste ore. Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, ovviamente i supermercati restano aperti con una discreta confusione, devo dire, Pedroni, perché alcune regioni come l'Emilia Romagna decidono di chiudere di domenica. Lo fa, se non vado errato, anche il Veneto, o comunque riducono gli orari. Altre regioni tengono aperte. Alcuni danno l'indicazione, dicono no, bisognerebbe tenere i supermercati più aperti, più a lungo possibile, perché così la gente ha più tempo, non deve fare le file, non ci si ammassa fuori dal supermercato. Altri dicono invece bisogna stringere le maglie. Pedroni, ci dia un'idea di quello che sta succedendo. Allora, anche in questo campo bisognerebbe avere più omogeneità di comportamenti e di interpretazioni, nel senso che in alcune regioni intervengono le autorità locali per far chiudere pezzettini di supermercato riguardanti il non food, ma casomai è un non food che serve alla vita quotidiana, pile, lampadine, le mutande, cose di questo genere, in altre regioni no. Noi abbiamo scelto di chiudere la domenica per 2 domeniche per dare un momento di pausa ai nostri colleghi che sono davvero molto molto impegnati in queste settimane, sotto pressione, sono davvero straordinari chi lavora nei negozi, ma è stata una scelta autonoma. Credo che sarebbe utile che non tutti si mettessero a fare decreti, ma solo il governo centrale, per essere molto chiari. Sì, per... In questo modo si darebbe un ordine molto più chiaro e si semplificano le cose. Le persone hanno il tempo per venire a fare la spesa, i negozi sono riforniti, quindi non ci deve essere preoccupazione per quanto riguarda la possibilità di fare la spesa. No, non c'è, Pedroni, un problema di approvvigionamento in sostanza, no? No, non c'è un problema di approvvigionamento, nel senso che le merci arrivano, ci sono, se manca un prodotto ci può essere un prodotto sostitutivo. E a parte pochissimi prodotti che sono legati in particolare a sanificazione e a igiene, tutti gli altri prodotti sono sostanzialmente sempre disponibili e i supermercati nostri. Adesso gliela butto là, Pedroni, è sparito il lievito. È sparito il lievito di birra. Ma adesso ritornerà, perché c'è una tendenza in questi giorni, più che le persone sono a casa, a recuperare, diciamo così, quella. quel modo d'essere che è far da mangiare. Tutti i panificatori. Tutti no, ma diciamo, cioè, si riduce la componente del cibo già pronto e aumenta invece la vendita di quei prodotti che servono a cucinare, a far da mangiare. Senta, la questione tecnologica, c'è un modo di organizzare meglio queste code, cioè strutturarsi, magari accordandosi tra voi soggetti della grande distribuzione pur concorrenti in questa fase di difficoltà, e far sì che, mi scrive un ascoltatore, passato adesso vicino ai vostri concorrenti dell'Esselunga, Pedroni, Milano, circa 20 persone in coda e sono, segnalo, le 6:54 del mattino. Allora, riusciamo a gestire questa cosa con la tecnologia in qualche modo? Con le prenotazioni le dice? No. Per esempio? Non è immaginabile, sarebbe una grande complicazione pensare che ci sia un sistema di prenotazioni per andare a fare la spesa. Se lei guarda le code, vale per l'Esselunga come vale per la Coop, vale per tutti, alla mattina si formano, ma a partire da mezzogiorno in avanti scompaiono. Le persone hanno ancora preoccupazioni di non trovare certi prodotti e quindi cominciano a mettersi in coda presto la mattina. Poi le code si formano anche se i negozi non sono così affollati, perché noi facciamo così, ma penso che anche i nostri concorrenti facciano così, perché si guarda con attenzione quando si forma un po' di persone, gruppi di persone, non so, all'ortofrutta oppure ai banchi, oppure in certe corsie, allora si ferma l'afflusso e si fa entrare solo un numero definito di persone. Sì. E sostanzialmente non è perché c'è affollamento eccessivo nel supermercato, ma perché in alcuni punti del supermercato c'è affollamento. Sì. Le faccio sentire, Pedroni. In questo momento non siamo concorrenti, stiamo tutti lavorando, ci teniamo in contatto anche tra distributori per cercare di trovare le soluzioni migliori. Questa è una buona notizia. Pedro, le faccio sentire questa voce, via. Durante la scorsa settimana la regione ha deciso di ridurre l'orario di apertura dei supermercati. Io ho chiesto comunque alla regione Lazio di rivedere gli orari, perché evidentemente degli orari più ampi e delle giornate più ampie per fare spesa consentono di diminuire la concentrazione di persone. E questa era Virginia Raggi, in questo lo dico io, Pedroni, e le chiederò invece sull'idea dell'apertura allungata ai supermercati. In questo paradosso per il quale il Movimento 5 Stelle, che ha sempre lottato, adesso mettiamocelo un elemento frizzante di politica, ha sempre lottato contro a favore della chiusura del domenicale dei supermercati, contro la che chiede l'allargamento, e il Partito Democratico dall'altra parte, che guida la regione invece, che stringe le maglie, per così dire. Però Pedroni, in 20 secondi, va allungato l'orario di apertura oppure no? Guardi, gli orari di apertura di oggi sono più che sufficienti, e anche se si riducesse un po' sono sufficienti. L'importante è che le persone siano tranquille e sappiano che si può fare sempre la spesa. La nostra opinione è che si può, per dare un po' di sollievo alle persone che lavorano in negozio, non solo le nostre ma anche di tutte le catene, e chiudere anche la domenica. Però faccia come ritiene il governo, ma faccia un provvedimento unico vale per tutti, sì. Dice lei. Non abbiamo tempo di farvi sentire il nostro inno, non ce l'abbiamo, mi spiace. Ritorno domani mattina alle 6:30, GR24, ci troviamo subito dopo con la rassegna stampa.